Queste persone, ancora in alto mare, avevano annunciato chiaramente l'intenzione di chiedere asilo sul territorio italiano. La Convenzione di Ginevra sullo Stato di rifugiato, che sottolineo è legge dello Stato italiano a tutti gli effetti, prevede espressamente che un richiedente asilo non possa mai essere trattato come un clandestino, ovvero anche se fa ingresso o tenta di fare ingresso irregolare o comunque è sprovvisto dei documenti idonei, non può mai essere trattato o sottoposto a misure sanzionatorie previste per i clandestini. Inoltre, la Convenzione di Ginevra prevede espressamente che un richiedente asilo, fino a quando non sia completato il procedimento di riconoscimento del suo status, che comprende anche non solo la fase amministrativa, ma l'eventuale fase giudiziaria di contestazione delle decisioni degli organi competenti, non può mai essere respinto alla frontiera e men che meno espulso dal paese. È l'esatto contrario di quello che è avvenuto nel nostro caso. L'esatto contrario. Qui queste persone hanno annunciato fin in alto mare l'intenzione di chiedere asilo in Italia e sono stati trattati subito, appena arrivati in Italia, come clandestini, colpiti da un provvedimento di respingimento alla frontiera, come semplici clandestini, ignorando totalmente la richiesta di asilo, provvedimento che poi ha dato luogo a un trattenimento che sembra, ma la questione è ancora oscura, convalidato con dubbissima validità dall'autorità giudiziaria e quindi, sempre trattati come clandestini, sono stati detenuti. Peraltro, comportamento ridicolo perché le autorità interpellate a più riprese hanno dichiarato che queste persone non erano trattenute, ma semplici ospiti, però le stesse autorità rifiutavano di rilasciarli. Le stesse autorità hanno a più riprese impedito l'accesso dei legali formalmente nominati e il colloquio con i loro assistiti. Queste persone sono state trattate peggio che dei delinquenti e si tratta di richiedenti asilo. Sono stati espulsi dal territorio italiano con un comportamento che non esito a definire fascista. Io ho paura, comincio a capire che ci troviamo in una società che non rispetta più nemmeno le regole che si è data. La Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato non ha contestato la loro cittadinanza dichiarata, quindi la loro cittadinanza sudanese. Pare, ma ancora non abbiamo conferme in questo senso, che siano stati spediti in Nigeria in virtù di un accordo di cooperazione per l'espulsione con la Nigeria che sta mostrando tutte le sue pieghe totalitarie e che d'altra parte si basa su un rapporto di cooperazione economica, tanto per intenderci, che quindi vede le autorità nigeriane come interessate a massimizzare il profitto di questo accordo. La Commissione Centrale per il riconoscimento dello Stato di rifugiato per i 22 che erano a Caltanissetta abbia valutato la opportunità di concedere un permesso di soggiorno per asilo umanitario. L'organo competente, la Commissione, ha deciso in un modo, il Governo se ne è infischiato persino della decisione di un organo autonomo che è la Commissione Centrale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato.